Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Mi sono accorto che la storia della musica, ma penso la storia dell'arte in generale, può essere anche percorsa non a senso unico, ma con un doppio senso di marcia. E è notevole come, per usare un termine francese, tutto si tiene nella storia dell'evoluzione del pensiero musicale. Quello che troviamo nella musica del Novecento lo troviamo in altra maniera nella musica barocca o nella musica del classicismo o del romanticismo, o come nel caso di Debussy lo troviamo nella musica ancora precedente, quella del 400, del 500. E l'altra cosa è che ne approfitto per provare a dare una doppia lettura. La prima è quella puramente emozionale, di quello che la musica racconta. I preludi di Debussy, la cattedrale Ambruti, Pagliato, può essere ascoltata con questa forma molto sensibile, quella del racconto musicale, e attraverso le note seguire le emozioni che Debussy vuole suggerire. L'altra possibilità, e lo vedremo dopo, è ascoltare la cattedrale Ambruti con un orecchio più razionale, consapevole, se vogliamo, di quello che è una parte della grammatica o della evoluzione del linguaggio musicale dall'epoca medievale fino all'epoca di Debussy. La cattedrale Ambruti, dicevo, è il decimo dei preludi del primo volume dei preludi di Debussy. È anche quello un po' più ampio. I preludi di Debussy durano pochi minuti, mediamente 3-4 minuti. La cattedrale Ambruti arriva a durare 6 e mezzo, poco di più, quindi, però è quello più abbondante. È quello però che è più caratterizzato, perché vuole raccontare una storia, mentre gli altri titoli sono estremamente evocativi. Con la cattedrale Ambruti, Debussy racconta quella che è una leggenda bretone, cioè la leggenda della città di Is, una città sommersa che nelle notti di bassa marea lasciava uscire la propria cattedrale. Questo racconto è praticamente diviso in 5 piccole parti, e quindi abbiamo un inizio che è una sorta di introduzione, quasi come se guardassimo un paesaggio, e da questo paesaggio si cominciano a sentire delle campane in distanza che annunciano l'uscita di questa cattedrale. La terza parte, dopo le campane, è la maestosità di questa cattedrale. La quarta parte è quasi il raccoglimento di chi, entrando in un luogo così evocativo, un luogo sacro in questo caso, sente una melodia, che può essere una melodia di un canto gregoriano, può essere una melodia di un organo. E la quinta parte è lo stesso tema della cattedrale che viene sommerso. La prima parte, quella che dovrebbe dare l'immagine e far entrare nel racconto, è composta da degli accordi. Con Debussy cominciano a esserci dei suoni, tra virgolette, sporchi, quando un suono non ha più la purezza di una armonia definita, dei suoni che vanno a sommarsi tra di loro, in questo caso con Debussy, con i compositori del periodo impressionista, non andando a creare una cacofonia, ma al contrario, prendendo valore dai suoni differenti rispetto all'armonia naturale, e in qualche modo aggiungendo una possibilità espressiva. Ecco, con questi accordi Debussy crea un'immagine di stasi, di sospensione anche, e quasi di incertezza. Poi a un certo punto inserisce un elemento perfettamente narrativo, e che sono i 12 ritocchi, attraverso questa nota che viene ripetuta nel corso della prima parte 12 volte. Debussy annuncia i 12 ritocchi della mezzanotte che preannunciano l'emersione della cattedrale. Thank you. C'è una melodia intanto. Da lì si passa quasi come voltando una pagina a quella che è la parte B. Questo scampanamento che prima è quasi nascosto, quasi sommerso, e a poco prende sempre più forma. Accordi perfettamente consonanti, vi si crea una massa sonora completamente nuova se lo rapportiamo a quello che poteva essere il pianoforte di solo 80 anni prima, quando Beethoven scriveva la sua Hammerklavier, la sonata per pianoforte a martelli, e chiedeva delle prestazioni a uno strumento che era effettivamente ancora poca cosa, delle prestazioni che Beethoven aveva in mente ma che non erano ancora realizzabili concretamente con lo strumento a disposizione. Con Debussy questa possibilità c'è. Ecco, a questa terza parte fa seguito un quarto elemento, che è quello del raccoglimento che potremmo provare se entrassimo dentro questa cattedrale riemersa. Ed è una melodia che è quasi la melodia di una sola voce, come se ascoltassimo un solo cantore o un coro che però canta con una linea melodica soltanto. Questa melodia a poco viene spostata più in alto, e poi ancora più su. Come se si aggiungessero delle voci, le voci di un coro. E a questa quarta parte fa seguito il finale, la quinta, che è lo stesso tema accordale dell'immagine di questa cattedrale, però riassorbita da un suono estremamente soffocato, e Debussy, per creare l'immagine di un movimento minimo, che è quello dell'acqua, che inghiotte nuovamente un edificio, si limita a solo tre note. Do, Re, Sol. Quasi come se fosse l'ebollizione o il movimento circolare dell'acqua, e su questa c'è la melodia della cattedrale. Thank you. vista puramente grammaticale. Torniamo a Bach. Perché Bach nel 1722 scrive quella prima parte di monumento in musica che è il clavicembalo del temperato. Si tratta di 24 preludi e fuga, un'altra raccolta del clavicembalo ben temperato ci sarà 22 anni dopo, nel 44, con altri 24 preludi e fuga, per un totale di 48 preludi e fuga. Ora, a parte che in questo caso la prima cosa che vediamo è che il preludio è sempre anticipatore di una fuga, che era il brano, il tipo di composizione che dimostrava la maestria di un compositore. Perché Bach scrive questi 24 preludi e fuga intitolati Il clavicembalo ben temperato, che poi è una traduzione un po' imprecisa perché Das Wohltemperierte Klavier, in realtà Klavier in tedesco sta per tastiera e comprende tutto quello che era strumento a tastiera, quindi clavicordo, clavicembalo, spinetta in qualche caso. Poteva anche trattarsi dell'organo, tutto sommato, non il pianoforte, ma di questo vedremo dopo. Scrive questi 24 preludi e fuga perché ogni preludio e fuga corrisponde a una delle possibili tonalità date proprio dal sistema temperato. Che cos'era il sistema temperato? Era un metodo di un certo Beckmeister, un teorico, che nei primi anni del Settecento elaborò un sistema, come altri ce n'erano di altri teorici, per una modalità di scrittura che potesse essere più agevole nello svolgimento di quello che erano le modulazioni e quindi la scrittura per armonie. La tonalità è un po' come una residenza, è come se un brano scritto in Do maggiore abitasse nella tonalità di Do maggiore. Da lì può uscire di casa e percorrere varie strade, che sono quelle armonie che sono affini a quella tonalità. Però può anche modulare. La tonalità è come la residenza in una città, la modulazione è come se da una città si passasse a un'altra città. E anche lì troveremo altre strade simili, però affini alla città che andiamo a visitare. Prima del sistema temperato, le modulazioni erano di grandissima difficoltà, ci si poteva allontanare pochissimo dalla tonalità di partenza. Con il sistema temperato, la possibilità di muoversi, di modulare e di andare quindi in altre tonalità diventava improvvisamente più agevole e con modalità di scrittura più semplici. Per fare questo cosa fa Beckmeister? Divide le note che compongono l'ottava, quelle che noi diciamo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dal do al do, le divide in 12 suoni. Do, do diesis, o re bemolle, re diesis, altrimenti detto mi bemolle, mi, fa diesis, altrimenti detto sol bemolle, sol, sol diesis o la bemolle, la diesis oppure si bemolle, si naturale e poi si arriva al do. Quindi queste note diventano la suddivisione che sarà l'elemento imprescindibile di tutta la musica occidentale dal Settecento fino a buona parte del Novecento, dopodiché molta musica occidentale prenderà punto dalla musica orientale, non solo, e quindi comincerà a dividere questi 12 suoni anche in parti più piccole. Però questi 12 suoni diventeranno l'elemento determinante delle 12 tonalità dello strumento a tastiera, al quale si rifaranno tutti gli altri strumenti, il flauto, il violino, il violoncello. Non potranno svincolarsi dalla scrittura del sistema temperato. E quindi avremo Do maggiore, Do diesis maggiore, Re diesis maggiore e via dicendo fino al Si. Ma avremo anche le tonalità minori, c'è Do maggiore, ma c'è anche Do minore, poi c'è Do diesis maggiore e c'è Do diesis minore. Quindi ogni tonalità ha un suo doppio, quello nella versione cosiddetta minore, quindi 12 tonalità che diventano 24. Ecco, Bach nel 1722 scrive 24 preludi e fuga, questo per dimostrare che il sistema temperato era quello che meglio di ogni altro poteva dare la possibilità al compositore di percorrere tutti gli itinerari possibili a livello armonico e di modulazione. Il primo di questi preludi e fuga è quello appunto in Do maggiore. Segna l'inizio di un giro di boa storicamente fondamentale, qualcosa che ha segnato tutta la scrittura musicale dei decenni e dei secoli successivi. Che cos'ha questo brano di particolare? La prima cosa, e già basterebbe questa, è che appunto non ha una melodia, è un semplice accompagnamento. Quello che per noi è l'elemento principale qui manca. Ci sono altri brani che forse potrebbero ancora vivere senza melodia, forse il Chiaro di Luna di Beethoven. Su quello che può essere l'elemento più aspettato, cioè la melodia. In questo caso il Chiaro di Luna trae valore da questo accompagnamento che diventa un flusso di note quasi sul quale appoggiarci col nostro ascolto, e la melodia un elemento che va ad arricchire in modo molto intenso l'accompagnamento, ma quasi come se non fosse la parte principale, ma già togliendola comunque un pochino qualcosa manca. Con Chopin questa esigenza non c'è. La linea melodica è suggerita, è quasi subliminale, il brano vive da solo. Ma la cosa importante è anche questa, che Bach non ne ha l'esigenza, perché questo accompagnamento, chiamiamolo così, va a battere molto frequentemente su quello che è il terzo grado della tonalità. Nella tonalità di Do maggiore è il Mi, Do, Re, Mi. Cosa aveva di importante il terzo grado nella tonalità? Che dava un'idea del carattere di quella tonalità. Prima vi dicevo che dei 12 suoni ogni tonalità può essere in modo maggiore o nel suo omologo minore. Do maggiore può essere Do minore. Basta cambiare una nota. Do maggiore. Do minore. Diventa un altro carattere. Ecco, però, prima dell'acquisizione da parte dei compositori del sistema temperato, questa terza nota non aveva questo rilievo, non era così determinante e non c'era una nota che in qualche modo determinasse in maniera così evidente il carattere più brillante, se vogliamo, della tonalità maggiore e il carattere più scuro, più cupo della tonalità minore. Se noi prendiamo questa tonalità di Do maggiore o la tonalità di Do minore e togliamo la terza nota, abbiamo qualcosa di neutro, qualcosa che non ha, che non ci dice che umore ha, se è un umore sereno o è un umore più triste. Prima dell'avvento del sistema temperato, e quindi a partire dalla musica medievale fino appunto al tardo 600, la musica non sfruttava questo elemento della modalità e quindi aveva un colore che era quasi indefinibile, non precisamente definito come umore. Debussy, nella Cattedrale Anglutí, in tutta la prima parte utilizza degli accordi che non hanno il terzo grado. Altro sarebbe se fossero non dico che diventi più bello, ma in ogni caso ha un suo colore, una sua definizione. Senza quella terza nota della tonalità diventano accordi vuoti, come se provenissero da lontano, ma non tanto in modo evocativo. È che proprio se noi andiamo a guardare la musica del 400, del 500, manca proprio quell'elemento, manca la nota che si chiama la modale, che determina il modo, maggiore o minore, manca il terzo grado, a dirci che carattere ha quel brano. E quindi Debussy approfitta di questo tipo di scrittura per andare a creare qualcosa che a livello evocativo richiama qualcosa di medievale, ma dal punto di vista grammaticale utilizza veramente un linguaggio preso dalla musica dei secoli precedenti, di molti secoli prima. Altro elemento presente nella composizione di Bach, la fuga. Che cos'è la fuga? È un brano che viene eseguito da più voci, possono essere più strumenti, possono essere più cantori, ha una linea melodica, in questo caso in Bach nel preludio e fuga in Do maggiore, questa linea melodica viene ripresa in tempi stretti da una seconda voce e poi da una terza e poi da una quarta. È una fuga questa a quattro voci, ce ne sono a tre, ce ne sono a cinque, poi nel tempo, ancora prima di Bach, i compositori si sono sbizzarriti a creare fughe a 36 voci, delle architetture di una complessità straordinaria. Ecco, però la fuga a quattro voci o a cinque era una delle fughe tipiche, anche perché le quattro voci poi erano soprano, contralto o mezzo soprano, tenore, basso o baritono. La fuga, che è questo grande affresco che si viene formando come attraverso un mosaico di tanti piccoli tasselli che si sommano, e anche se sono quattro le voci, ma solo nella prima parte ci sono con quattro voci 10 entrate. Nella seconda parte le entrate sono 15, totale sono 25 volte viene riproposto in tempi brevi questo tema, ma queste 25 sovrapposizioni o queste 24 sovrapposizioni, unioni alla prima entrata, creano un colore di grande compattezza, un colore estremamente affascinante per quello che è l'unione dei suoni e l'unione delle frasi musicali in musica. Vi faccio sentire la prima esposizione delle quattro voci. E sentirete che è come se a poco si aggregassero delle persone nuove alla prima che sta cantando. Entra la seconda. Poi entra la terza. Si sommassero e si rincorressero. La costruzione di una fuga è estremamente complessa. Nel teatro d'opera possiamo seguire più personaggi contemporaneamente che parlano cantando contemporaneamente, perché insieme creano un'armonia che possiamo distinguere con la possibilità di capire. L'esempio più banale, il quartetto di Bohème, Marcello e Mosetta, che bisticciano mentre Rodolfo e Mimì sono in una scena d'amore. E noi riusciamo a seguire tutte e quattro i dialoghi delle due coppie contemporaneamente, senza che questo in un teatro di prosa sarebbe possibile. In una fuga è difficile riuscire a seguire tutte le entrate delle voci. Non è sempre semplice, però la grandiosità della fuga, secondo me, è data dal fatto che è il più bel esempio in musica di aggregazione. Non a caso la fuga era uno degli elementi della musica sacra, però possiamo vederlo anche in maniera assolutamente laica. L'idea che le voci si uniscano, a poco si congiungono, si uniscono e si sommano, creando qualcosa di grande. Se noi riprendiamo quella che è la quarta parte del preludio di Debussy, passa dal registro basso, poi al registro medio, poi al registro acuto. È quasi un'evocazione di quello che era lo scambio delle voci all'interno di una fuga. Una fuga ha delle regole ben precise e senza quella aderenza alle regole imposte non è una fuga. E in questo caso non lo è. Ma dal punto di vista dell'immagine sonora, come all'inizio quegli accordi vuoti senza il terzo grado, senza la terza nota, evocano qualcosa di estremamente lontano, quando ancora non c'era il sistema temperato. In questo caso questa melodia, prima esposta da una voce, poi più su, e poi ancora più su, in qualche modo richiamano quello che era l'elemento che arrivava da Bach e dai predecessori di Bach. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica, 3 secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.